Il Falco e il Gabbiano presenta Chuck si vola di Enrico Ruggeri. Qualcuno volò sul nido del cuculo. Luigi Pirandello, nella sua geniale commedia Il berretto a sonagli, affronta uno dei temi più cari a lui, ma in realtà a tutta l'umanità, cioè il tema della verità. È sempre problematico rivelarla, tracciare una linea di demarcazione tra ciò che è falso e ciò che è vero, ma soprattutto come si fa a dire sempre la verità senza incorrere in guai. Cioè, immaginate la vostra vita, ogni momento della vostra vita, voi immaginate di dire esattamente quello che pensate alla persona che avete di fronte. La vostra vita sarebbe impossibile, a meno che uno si finga pazzo. Eh sì, perché se uno è pazzo può dire tutta la verità in faccia, tanto nessuno ci crederà, o comunque verrai preso con beneficio di inventario. E intanto però tu la verità l'hai detta. Non sappiamo se il nostro protagonista di oggi conosceva Pirandello, probabilmente no, però il nostro protagonista è un anticonformista, è un uomo molto violento, un uomo insofferente alle regole di qualsiasi genere, uno peraltro che si trova a dover scontare una condanna in carcere per gioco d'azzardo e aggressione. E allora viene mandato in una fattoria correzionale, praticamente ai lavori forzati, lui lì non ce la fa. E allora gli viene in mente un'idea in teoria anche intrigante, cioè fingersi pazzo, perché in quanto pazzo sconterebbe la sua pena non lavorando lì, ma in un altro posto, in un ambiente ovattato, così lui pensa, un ambiente protetto, un ospedale psichiatrico. Quindi il nostro protagonista si imbosca, è una scappatoia, vuole stare tranquillo e allora comincia a dire la verità in faccia a tutti. E chi dice la verità in faccia a tutti, ne parlavamo prima, viene preso per pazzo. E così il nostro protagonista finisce in manicomio. E qui inizia la sua incredibile, terribile avventura, una vicenda straordinaria, piena di colpi di scena, di situazioni paradossali, con personaggi carichi di umanità, di sofferenza. È una vicenda che poi volge verso un epilogo terribile, segnato da violenze psicologiche inaudite e quindi con sviluppi drammatici. Bene, il nostro protagonista di oggi è Randall Patrick McMurphy. È un veterano della guerra di Corea, è stato decorato, è un ribelle americano che subisce il contraccolpo delle guerre che gli americani amano andare a fare in giro per il mondo, e lui nel 63 arriva all'ospedale psichiatrico a Salem in Oregon. Deve essere vagliato, cioè bisogna verificare se la sua presunta malattia mentale è vera o simulata, e Randall vola sul nido del cuculo, che è un'espressione gergale americana con la quale si identificano quelli che vengono ricoverati in manicomio. Sì, il signor McMurphy, dottore. Va bene, fallo accomodare. McMurphy, sono il dottor Spivey. Dottor Spivey, sono veramente lieto di conoscerla. Grazie. Prenda una sedia, si sieda e parliamo. Randall Patrick McMurphy, età 38 anni. Dicono che si è dimostrato bellicoso, che parlava quando non era consentito, che ha dimostrato intolleranza verso il lavoro in generale, che è indolente. 1, 2, 3, 4. Lei è stato arrestato almeno 5 volte per aggressione. Già. Cosa sa dirmi in proposito? 5 combattimenti, eh? Rocky Marciano ne ha fatti 40 ed è diventato miliardario. Beh, quel che dicono qui è che sono convinti che lei finga per cercare di evitare di lavorare. Senta, Randall, vuol dirmi se crede che la sua mente abbia davvero qualcosa che non va. Non ha niente, dottore. È una maledetta, stupenda meraviglia della scienza. E così Randall McMurphy gioca a carte scoperte con il dottor Spivey, che è il direttore sanitario dell'ospedale psichiatrico, cioè non simula la pazzia, ormai sa che comunque per un paio di mesi potrà rimanere ricoverato lì, insomma si eviterà un bel po' di fatica in carcere. Eh sì, perché lui è convinto che la realtà di un ospedale psichiatrico sia più accettabile di quella di una prigione, e lui non ha voglia di lavorare, ma non ha fatto i conti con quello che lo aspetta al Salem, non ha idea di cosa sia un vero paziente infermo mentale, e lui avrà a che fare proprio con loro, soprattutto poi non conosce ancora la caporeparto, la terribile infermiera Mildred Ratched. E così Randall McMurphy viene ricoverato nell'ospedale psichiatrico di Salem e scopre subito che ci sono due tipi di pazienti, quelli cronici, cioè gli incurabili, che sono direi in stato vegetativo, e poi gli acuti, e tra quelli viene inserito anche lui, pazienti ritenuti curabili, che sono lì volontariamente perché sono incapaci di affrontare la società da soli, soffrono di varie forme di malattia mentale. Poi ci sono, non so, gli omosessuali repressi, i germofobici, i timidi patologici, gli epilettici, ci sono quelli che soffrono di allucinazioni, e ci sono quelli che hanno delle vere e proprie ossessioni. Insomma, ogni tipo di disagio mentale è rappresentato. Ma la scoperta vera, quella drammatica, quella che cambierà radicalmente la visione di McMurphy dell'ospedale e della sua stessa permanenza, della sua stessa vita, è lei, è la grande infermiera Mildred Ratched, è la caposala, è un tiranno, è responsabile dell'ospedale, lei esercita il suo potere in maniera totale, controlla i pazienti. La grande infermiera tende a irrigidirsi se qualcosa impedisce al suo reparto di funzionare come una scorrevole e impeccabile macchina di precisione. La più piccola cosa che non vada, o non sia in ordine, o costituisca un inciampo, la lega come un piccolo groviglio incandescente di furia a labbra strette. Ella si aggira qua e là, il sorriso da bambola compresso tra il mento e il naso, e un calmo frullio che le esce dagli occhi, ma dentro di sé è dura e tesa come l'acciaio. E non si rilassa nemmeno di un capello fino a quando non è riuscita a fare eliminare l'inciampo. Sotto la sua direzione, la corsia è completamente controllata. La pratica l'ha resa più ferma e più forte, finché ora ella detiene un potere sicuro che si estende in tutte le direzioni, lungo fili sottili come capelli, troppo esili per poter essere veduti dagli occhi di chi che sia. Sta seduta al centro di questa ragnatela di fili come un vigile automa. Controlla la propria rete con un'abilità meccanica da insetto, sapendo in ogni secondo dove corre ciascun filo e precisamente quanta corrente deve immettervi per ottenere i risultati voluti. Un anno dopo l'altro, ella accumula il proprio staff ideale. Medici di ogni età e di ogni tipo giungono ed emergono di fronte a lei con idee proprie sul modo con il quale dovrebbe essere diretta una corsia. E alcuni di essi hanno abbastanza spina dorsale per sostenere le loro idee, ma ella li fissa con occhi di ghiaccio secco, un giorno dopo l'altro, finché loro si ritirano, percorsi da brividi innaturali. Insomma, avete capito il personaggio, stiamo parlando di una donna inflessibile che vuole avere sempre tutto sotto controllo e che inevitabilmente andrà a scontrarsi con la personalità ribelle di Randall. Lui non si lascia intimorire dalle minacce, non ha paura delle punizioni, si oppone all'assunzione di farmaci calmanti, insomma diventa una mina impazzita all'interno della corsia, dove tutto funziona, dove tutto deve funzionare. Lui arriva a stravolgere questo scorrere lento di giorni tutti uguali, con una scaletta studiata minuziosamente per controllare qualsiasi attività, soprattutto per controllare la mente dei pazienti. Appena arriva in corsia, Randall McMurphy conosce gli altri ricoverati, lega subito con due di loro in particolare. Uno è un ragazzo, si chiama Billy Bibbit, è un giovane timido, ma dire timido è un eufemismo, totalmente chiuso in se stesso, nervosissimo dal comportamento infantile, con una balbuzie gravissima che gli impedisce di esprimersi. Billy, peraltro, è un autolesionista, ha tentato parecchie volte il suicidio. Lui è totalmente succube di sua madre, l'infermiera Rached usa questa sua sudditanza psicologica per fargli fare tutto quello che lei vuole, perché quando lui non le obbedisce lo minaccia di avvertire la madre, della quale si dichiara molto amica, e lui rientra subito nei ranghi. Questi sono i metodi terribili della caposala. E poi c'è un altro paziente del quale Randall McMurphy diventa subito amico, il capo Bromden. È un nativo americano, è enorme, un pelleroso sordomuto che passa tutta la giornata a spazzare i pavimenti, perché quello è il compito che gli ha assegnato l'infermiera Rached. Lei è convinta che il capo sia un demente, che non possa fare più di quello. In realtà le cose non vanno proprio così, non sono proprio così. Randall lo scopre quasi subito. Ehi, vuoi una gomma? Grazie. La frutta. Disgraziato figlio di puttana, grande capo. Ci senti pure? E come? Ma che mi prendo un colpo che mi prende. E loro? Tutti loro credono che tu sei sordo muto, eh? Cristo, è fantastico! Le hai fregati tutti quei coglioni! Che ci facciamo qui, grande capo? Che ci facciamo qui noi due in questo posto di merda? Eh sì, avete capito, il grande capo Bromden fa finta di essere sordomuto, parla, ci sente benissimo, però ha usato questo stratagemma per vivere tranquillamente la sua vita, quindi insomma anche questa è una patologia, però diversa da quella che gli viene attribuita. Lui è lì tranquillo, ascolta, viene a conoscenza di tutti i segreti dell'ospedale. Da ragazzo era stato una stella del football, aveva studiato all'università, era stato un eroe di guerra, poi era caduto in una depressione profonda causata dalla sua condizione di pelle rossa. Insomma, lo sapete, i pelle rossa in America hanno subito persecuzioni di tutti i tipi, soprattutto mentali più che fisiche. Bene, gli hanno rubato tutto, gli hanno rubato la dignità, e lui ha cominciato a soffrire di allucinazioni, ha paura del mondo esterno, pur essendo peraltro un uomo dalle dimensioni gigantesche. Decide di rivelare il suo segreto a Randall perché istintivamente si fida di lui. Fa bene, perché Randall si affeziona moltissimo a lui, non rivelerà mai il suo segreto. Tra loro si instaura un rapporto di grande solidarietà. L'abbiamo detto, Randall è un giocatore d'azzardo e fin dal suo primo giorno in reparto, così tanto per fare qualcosa, organizza partite con gli altri detenuti, partite che ovviamente non si svolgono in maniera normale perché i pazienti non sanno giocare, non conoscono le regole, mettono a dura prova la pazienza di Randall. Ecco le carte: Regina Chase, Asso di picca Tabor, un 10 a Billy e al cartaio un 3. Dammi carta. Carta a me. Senti, carta... non te le posso dare le carte perché non tocca ancora a te. Capito? Le vedi queste persone? Queste sono vere. Queste sono persone vere. Hai fatto 8 e mezzo, Cheswick. Carta Tabor? Tu hai sballato, dammi qua. Sballa... Ah, carta? A me. Senti, insomma! Tabor. Carta a me. Dammi. Tocca a me, Tabor. No, che non tocca a te! Carta a me. Eh? Un 3. Carta a me. Tu hai 4, che fai? Non ne vuoi più? Carta a me. Tu non hai mica puntato, Martini. Non hai diritto alle carte, ok? Ecco 10 cents. D'accordo, tieni, ecco la carta. C'hai 7 e mezzo. No. Prendi i soldi e dimmi grazie. No, non lo è. È 1, 2, 3, 4, 5. Questo è un 7 fottuto, lo vedi sì o no? Lo vedi? Non ti confondere coi fiorellini. Carta a me. Hai già 7 e mezzo! Un'altra carta, dammene un'altra. Randall McMurphy fa veramente fatica ad adattarsi, un po' per carattere, perché è un ribelle, e poi perché lui non è un malato di mente, quindi insomma le regole della grande infermiera sono regole che intanto vanno al di là di quella che sarebbe la gestione normale di un gruppo di malati psichici, e poi insomma sono regole per lui intollerabili. Lei usa peraltro i farmaci come arma per placare le acque e poi ha questo comportamento tirannico. Lei non considera i malati come persone con dei sentimenti, con delle emozioni, solo come un problema. Per lei sono un problema da tenere sotto controllo e lo fa con una bella dose di sadismo camuffato da professionalità. Insomma, i suoi sono veri e propri abusi di potere. Oggi un caso del genere probabilmente verrebbe alla ribalta come il manicomio degli orrori, con tanto di telecamere nascoste. E allora si poteva abusare del proprio potere senza paura. Vada via! Mi scusi, signorina, volevo soltanto abbassare... Vada via, signor McMurphy. I pazienti non sono ammessi nella stanza delle infermiere. Ma io volevo soltanto abbassare. Bene, cominci con l'uscire e poi discuteremo i suoi problemi, se ne ha, d'accordo? I pazienti non sono ammessi nella stanza delle infermiere, chiaro? Ah, signora, mi scusi. Non crede che sia possibile abbassare un po' quella musica, così forse possiamo parlare tra noi? Non credo. Quella musica è per tutto il reparto, signor McMurphy. Sì, lo so, ma non crede si possa abbassare solo un pochino, così noi magari non siamo costretti ad urlare, eh? Lei probabilmente non si rende conto che abbiamo dei vecchi e molti nel reparto e non sentirebbero la musica se noi l'abbassassimo. Quella musica è tutto ciò che hanno. Sta insudiciando il vetro con la mano. Oh, mi scusi, signore. Fa niente. Mi scusi, signore. Signor McMurphy, la sua medicina. Che cos'è questa porcheria? È solo una medicina, le farà bene. Già, ma non mi piace affatto l'idea di ingoiare qualcosa quando non so che roba è. Non si arrabbi, signor McMurphy. Ma io non mi sto arrabbiando, Miss Pillbow. È solo che non voglio ingoiare cose che a tradimento me lo fanno ammosciare. Questo si è capito. Lasci stare, Miss Pillbow. E se il signor McMurphy non vuole prendere la sua medicina per via orale, penso che non sia difficile dargliela in modo diverso. L'infermiera Rachel, peraltro, usa sempre questo sorriso sulle labbra, questa voce suadente, melliflua, però naturalmente uno come McMurphy non si farà girare, è intenzionato a ottenere quello che reputa il suo diritto, i suoi diritti sacrosanti, poter fumare le sigarette che si è comprato coi suoi soldi, poter guardare una partita di football in televisione e soprattutto sapere quali sono le medicine che gli vengono somministrate. Insomma, lo scontro tra i due è inevitabile, sarà drammatico, avrà sviluppi devastanti per tutti. Chuck si vola. Qualcuno volò sul nido del cuculo. La vicenda che vi stiamo raccontando oggi si svolge nel 1963. Siamo nell'ospedale psichiatrico di Stato a Salem, nell'Oregon. C'è Randall Patrick McMurphy, è detenuto in una prigione ordinaria per gioco d'azzardo, per aggressione. A un certo punto riesce a cambiare il suo stato perché simula una follia. In realtà comincia a dire la verità a tutti, viene preso per pazzo e quindi finisce nell'ospedale psichiatrico. Anche perché lui lì è convinto di poter scontare comodamente la sua pena fingendosi pazzo. E però non sa che lo sta aspettando un destino molto più complicato di quello che lui prevedeva. Lui intanto non si uniforma alle regole rigide della disciplina che sono state imposte ai pazienti, non prende le medicine, insomma finisce per scontrarsi apertamente con una donna francamente spregevole, la terribile responsabile del reparto, la capo infermiera Mildred Ratched. Lo scontro fa sì che lui piano piano conquisti il rispetto, la simpatia, quasi la deferenza degli altri malati e in particolare diventa amico del capo Bromden, che è un gigante, un pelle rossa, che per avere meno problemi si sta fingendo sordomuto, e poi diventa amico invece di una persona completamente diversa. Billy Bibbit è un ragazzino succube della madre, pieno di problemi, più che timido, balbuziente per ansia, e insomma grazie a Randall i malati cominciano a capire che non sono solo dei casi clinici, ma delle persone che meritano di essere rispettate, anche perché la maggior parte di loro è lì, diciamo, volontariamente, cioè qualcosa ha firmato per trovarsi in quella situazione. Cheswick, Sei volontario, tu? Scanlon. Billy, senti, non mi direi che pure tu sei volontario, eh? Sì. Ma non è possibile. Ma dico, se sei ancora un ragazzino, che cosa ci fai qui? Dovresti spassartela su una bella spider, a rimorchiare ragazze, scopare come un matto. Che cavolo ci fai qui, vacca troia? Ma che ci avete da ridere? Ma porcaccia, ma dico io, ma voi altri non fate altro che lamentarvi che non ce la fate a stare in questo posto. Ma non ce l'avete il coraggio di andarvene via da qua dentro? Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi? Davvero? Invece no. Invece no, voi non siete più pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io. E qualcosa sta cambiando nell'intimo di Randall, c'è una trasformazione in atto, perché lui quando era arrivato all'ospedale pensava solo a se stesso e in realtà simulava per una ragione utilitaristica, per non fare fatica in carcere, per starsene imboscato. Ecco, era un imboscato, stare in un luogo dove non fare nulla a spese dello Stato e invece di sgobbare nella fattoria correzionale. Poi le cose però sono cambiate, perché si accorge che i suoi compagni di reparto stanno vivendo una realtà terribile, lui fa fatica a accettarlo, in qualche modo tira fuori la parte nobile di se stesso, quella di cercare di difendere dei diritti umani calpestati quotidianamente senza motivo. Non riesce a sopportarlo questo e capisce che la colpa di tutto è dell'infermiera capo Ratched, è una donna malvagia profondamente, lui la vuole fermare a tutti i costi e decide di dichiararle guerra usando un'arma subdola, quella dell'esasperazione. È abbastanza semplice, non c'è niente di nobile e di complicato nella faccenda. Mi piace giocare d'azzardo e mi piace vincere. E questa scommessa credo di poterla vincere, ok? Non ho mai conosciuto una donna che mi abbia dato l'impressione di essere più uomo di me. Può essere avvantaggiata dal fattore tempo, ma anch'io ho a mio favore una lunga sequela di vincite. Ah, un'altra cosa, mi trovo qui perché l'ho voluto io. Questa è la verità, pura e semplice. Perché questo posto è meglio di una fattoria correzionale. A quanto mi risulta, non sono matto. O se lo sono, non l'ho mai saputo. La vostra infermiera non lo sa. Non si aspetterà di avere a che fare con una mente pronta come ovviamente è la mia. Queste situazioni mi danno una scaltrezza fulminea che mi piace. Quindi pagherò $5 a ognuno di voi che ci stia se entro una settimana non riuscirò a piazzare una cimice nel culo di quell'infermiera e mandarla in bestia, esasperarla, tormentarla finché cederà lungo quelle sue impeccabili cuciture e dimostrarvi almeno una volta che non è proprio così imbattibile come la credete. Una settimana e lascerò giudicare a voi se avrò vinto io o no. Randall McMurphy sfida apertamente la grande infermiera, lo fa ogni volta che può e poi le scatena contro anche gli altri malati, che cominciano a capire una cosa molto importante: malgrado la loro malattia, loro sono esseri umani con dei diritti e sono persone che meritano rispetto, non devono per forza subire le angherie di questa donna e del suo staff. L'azione più azzardata di McMurphy è quella che organizza per far divertire i suoi amici, è una goliardata in grande stile, perché lui si impossessa dell'autobus a servizio dell'ospedale, porta il suo gruppo a pescare su una barca che lui ha rubato, insomma ha sottratto con l'inganno. Ehi, un momento! Che cavolo succede qui? Che state a fare su questa barca? Andiamo a pescare. No, che non andate a pescare. Non con questa barca, non ci andate a pescare con questa barca. Oh, sì, con questa barca. Lo chiedo al capitano Black. Capitano Black? Capitano Black, sì, esatto. Ma chi siete? Beh, siamo membri dell'Istituto Psichiatrico dello Stato e questo è il dottor Cheswick, il dottor Table, il dottor Fredrickson, il dottor Scanlon, il famoso dottor Scanlon, il signor Harding, il dottor Bibbitt, il dottor Martini e il dottor Seifert. Ma non mi ha detto chi è lei? Oh, sono il dottor McMurphy, R.P. McMurphy. Ehi, ehi, un momento, aspetti un momento, aspetti un istante, non ha capito? Abbiamo noleggiato la barca per andare a pescare, nient'altro, tutto qui. Von Seifert! Togli la cima di poppa. Questa battuta di pesca genera parecchi disordini nel reparto. Tutto verrà represso con grande crudeltà. McMurphy viene sottoposto a diverse sessioni di elettroshock. L'officina dello shock, signor McMurphy, è come noi chiamiamo l'apparecchio dell'EST, l'elettroshock terapia. È uno scaltro, piccolo procedimento, semplice, rapido, quasi indolore, tanto è fulmineo, ma nessuno vuole mai ripetere l'esperienza. Si viene legati con cinghie a un tavolo fatto a forma, ironico a dirsi, di croce, con una corona di contatti elettrici al posto delle spine. Ogni lato della testa è collegato a fili. Poi, zac, 5 centesimi di corrente elettrica attraversano il cervello ed eccola sottoposta al contempo alla terapia e al castigo per il suo comportamento ostile, oltre a rimanere tagliato fuori da tutto, per un periodo da 6 ore a 3 giorni, a seconda dei soggetti. Anche quando riprende i sensi, rimane per giorni in uno stato confusionale, non riesce a pensare in modo coerente, non riesce a ricordare le cose. Un numero sufficiente di questi trattamenti e un uomo potrebbe diventare come il signor Ellis che lei vede là contro il muro, uno sbavante idiota che si piscia addosso a 35 anni. Ma nonostante l'elettroshock sia una pratica devastante, violenta, McMurphy resiste con coraggio, con forza straordinaria. Sembra quasi avere la meglio sulla grande infermiera, ma il peggio deve ancora venire. Chuck si vola. Qualcuno volò sul nido del cuculo. Randall McMurphy ha la scorza dura, nonostante diverse sessioni di elettroshock riesce sempre a riprendersi e continua, più convinto che mai, a contrastare con tutte le sue forze l'operato dell'infermiera Ratched. E allora i pazienti tifano per lui, sono incoraggiati dal suo atteggiamento ribelle, allora cominciano a esprimere le loro necessità, cominciano a mettere in discussione l'autorità della terribile caporeparto, cosa che prima dell'arrivo di McMurphy non avrebbero mai nemmeno immaginato di fare. Però lui è messo a dura prova, si è scelto un ruolo veramente faticoso, anche pericoloso, perché l'elettroshock non è una passeggiata. Alla fine sente di non farcela più e pensa di evadere, vorrebbe portarsi dietro anche il grande capo. Grande capo, sai una cosa, non ce la faccio più. Devo andarmene via di qua. Non posso, io non posso. Se sbagli è più facile di quanto credi. Per te può darsi. Tu sei più grande di me. Dai, andiamo. Tu sei grande e forte come un tronco di quercia. Uno veramente grande era mio padre. Lui poteva fare quello che voleva. Per questo aveva tutti quanti contro. L'ultima volta che l'ho visto era ubriaco, fradicio, gli occhi bruciati dall'alcol. Ogni volta che portava la bottiglia alla bocca, non era lui che la beveva, era la bottiglia che gli beveva il cervello. Si era ridotto che neanche i suoi cani lo riconoscevano. L'hanno ucciso, eh? No, non dico che l'hanno ucciso. Se lo sono lavorato, come si stanno lavorando te. Però il grande capo ha intuito che l'infermiera Ratched non vuole tenersi in reparto uno come Randall. Teme che la donna stia preparando qualche vendetta senza ritorno per lui. Insomma, alla fine, anche se è spaventato, accetta di scappare con Randall e i due decidono di fuggire assieme in Canada. Corrompono la guardia del turno di notte e Randall organizza una festicciola nel reparto per dare l'ultimo saluto ai compagni e decide di fare le cose in grande, si procura molto alcol e riesce addirittura a far entrare di soppiatto due prostitute sue amiche, forza anche la serratura della stanza dei medicinali per rubare lo sciroppo alla codeina, altri psicofarmaci. Insomma, è un party in piena regola, i pazienti si divertono tantissimo perché non hanno mai fatto tanta baldoria assieme e finiscono per ubriacarsi tutti, e alla fine anche McMurphy e il grande capo si addormentano sul pavimento della corsia completamente ubriachi e così viene vanificato il loro piano di fuga per quella notte. Il mattino dopo, la Rece e i suoi infermieri trovano il reparto sottosopra con i pazienti ubriachi. Billy aveva smesso di balbettare, si era tranquillizzato, si era addormentato tra le braccia di una delle due prostitute in un letto, e la caposala lo sgrida pesantemente, gli dice di vergognarsi. Billy si fa valere per la prima volta in vita sua, lei risponde male senza balbettare. È un atto di eroismo. La Rece da quel punto gli dice che racconterà subito alla madre quello che ha fatto, e lo colpisce nel suo nervo scoperto, nel suo punto debole. Il ragazzo comincia a balbettare, ha una crisi di nervi, lei lo isola dagli altri, subito lo fa portare nello studio del medico, e Billy, rimasto solo, si suicida tagliandosi la gola con un bisturi. La Rece incolpa davanti a tutti McMurphy del suicidio di Billy. McMurphy è sconvolto per il dolore, è infuriato per come l'infermiera stia manipolando l'accaduto, e l'aggredisce, tenta di strangolarla con tutte le sue forze, sta per ucciderla quando un inserviente lo stordisce. Passa una settimana, di lui non si sa più niente. Alcuni pazienti dicono che è stato trasferito in un altro reparto, altri che è riuscito a scappare. Torna l'infermiera Reched, non è in grado di parlare per la violenta aggressione che ha subito da Randall. Deve scrivere i suoi ordini su dei foglietti di carta che non hanno lo stesso impatto sui pazienti rispetto alla sua voce melliflua e tagliente. E infine, una notte, mentre tutti dormono, McMurphy viene ricondotto in reparto, è irriconoscibile, è completamente istupidito. Eh sì, perché per ridurlo all'impotenza gli è stata praticata la lobotomia. È un vegetale. Il grande capo Bromden, vedendolo così, vedendo il suo amico ridotto in quel modo, decide che non può lasciarlo al suo infame destino. Una luna fredda splendeva dietro la finestra, riversando nel dormitorio luce simile a crema di latte. Mi drizzai a sedere sul letto e la mia ombra cadde sul corpo di Randall. Il gonfiore era diminuito intorno ai suoi occhi, quanto bastava per far sì che restassero aperti. Fissavano direttamente la luce della luna, spalancati, vitrei, tanto da essere come fusibili bruciati e anneriti nella loro scatola. Mi mossi per sollevare il guanciale e gli occhi mi fissarono e mi seguirono mentre mi alzavo e percorrevo le poche decine di centimetri tra i due letti. Il corpo grosso e robusto aveva una salda presa sulla vita. Lottò a lungo per non farsela togliere, dibattendosi e sussultando. Gli rimasi sopra per quelli che parvero giorni, finché i sussulti non cessarono, finché restò immobile. Sollevai il guanciale e nel chiaro di luna vidi che l'espressione non si era modificata minimamente, nemmeno durante il soffocamento. Con i pollici abbassai le palpebre e le tenni giù finché giù rimasero. Il grande capo Bromden soffoca Randall McMurphy con un cuscino, poi sradica un pesante lavabo di marmo, infrange una finestra dell'ospedale e fugge finalmente verso la libertà, va in Canada come aveva programmato di fare assieme al suo amico. E così l'unico colpo d'ala possibile è quello dell'uomo forte, del pelle rossa, che in qualche modo riesce a ribellarsi e a rappresentare anche un riscatto che invece il nostro primo protagonista, Randall McMurphy, non può avere. Randall McMurphy rimane vittima della sua sete di giustizia e dei soprusi, come ahimè è successo tante volte nella storia di questa umanità. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falgelgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi, a trovarci sui nostri social. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.